Uno, Nessuno e 100 Milan, una trasmissione radio che ti fa capire che è meglio lavorare in radio che andare a lavorare. Uno, Nessuno, 100 Milan di Alessandro Milan con Leonardo Manera. Siamo qui alle 9 e 8 minuti a quasi lavorare insieme a voi per tenervi compagnia fino alle 11. Oh, ma quando lavori? Adesso per l'appunto lavoro. Ecco, è partita ieri questa campagna denigratoria a definire il nostro un non lavoro, ma sapete che su questo io vi do completamente ragione, quindi è una polemica sterile quella. A me ma pare una strunza! È una polemica sterile, dicevo questa. Comunque, se voi ritenete che qui non si lavori, va bene, siamo d'accordo con voi al 100%. Quindi, argomento chiuso, prossima polemica. Alle 9-8 minuti saluto in regia l'Alpino, così come Miriam Lucchetti, Elisabetta Fusconi e Lorenzo Nespoli in redazione. Ci siamo? L'entopede arriva? Arriva? Arriva, vai. Enthusiasm about the future. I'm too afraid to use the phone. I'm too afraid to put the light on. I'm so afraid I've lost control. I'm suffocating without a word. Crazy with sweat. Eccoci qui, 800 24 00 24, questo è il numero per intervenire in diretta, oppure il 349 238 6666, questo è il numero per i vostri messaggi, i vostri WhatsApp, i vostri SMS, il modo per entrare in contatto con noi. Che dire, è un mondo un po'... mi sono svegliato un po' sconsolato oggi quando ho letto i giornali. È un mondo in cui strappano le firme anche al Papa emerito. Cioè, se uno fa una vita da Papa, poi ora da Papa emerito, e gli strappano la firma, pare, in maniera non lecita, come non so, un venditore di abbonamenti in palestra per strada, qualunque, cioè vittima di questo. Perché lo sapete forse che tutta la polemica nata da questo libro che verrà pubblicato, scritto da un cardinale, Sara, si chiama Sara ma il cognome è un uomo, essendo cardinale, e nel quale il Papa Benedetto dice di non aprire assolutamente e non rompere il vincolo del celibato dei preti, però adesso si scopre, dopo un giorno di polemiche, che filtra da qualche collaboratore di Papa, il Papa, si può chiamarlo ancora così, dell'ex Papa Benedetto XVI, che in realtà non era d'accordo a pubblicare questo libro, non ha dato alcuna autorizzazione a pubblicare il libro, stava solo scrivendo una nota che il Cardinal Sara ha visto, ha messo nel suo libro, insomma, un gran casino in Vaticano. Beh, quello che ha colpito è che, oh, pure se sei stato Papa, non puoi fidarti e ti fottono la firma e ti pubblicano a tuo nome delle cose che magari non hai detto e sulle quali non sei d'accordo. Ragazzi, che sconforto, che sconforto. Non so se lo sconforto c'è anche per tutti i cittadini di Roma. Vorrei convocarvi, cari romani, che oggi avete lasciato in garage circa 650.000 macchine, tutte bloccate, 650.000. Il traffico sarà... Sì, quando si parla di Roma la premessa è sempre viva i gabbiani. Io sto dalla parte dei gabbiani e non dalla parte di chi accusa i gabbiani di fare i gabbiani, e cioè di andare a mangiare i rifiuti. Ma al di là di questo, cosa ne pensate di questo blocco delle auto per lo smog, per l'inquinamento? Tutti gli anni c'è questa questione, sono dei palliativi assurdi, dei palliativi che non servono a eliminare il problema. Per esempio, a Milano c'è una gran polemica. Se voi andate nelle vie dello shopping, che ne so, Corso Buenos Aires, Corso Vercelli, soprattutto Corso Buenos Aires, devo dire, c'è una grande polemica contro le grandi catene di vestiti, del commercio, che tengono aperte le porte, sempre, perché così invogliano i clienti a entrare, E quindi per tenere aperte le porte, se fuori fa freddo, dentro ci deve essere una temperatura di tipo 72 gradi con le mangrovie che crescono e c'è un riscaldamento esagerato, vergognoso. Quello provoca l'inquinamento, forse non lo so, di 2000 macchine. Ecco, non è un dato scientifico quello che sto dando, è un esempio. Allora, occupiamoci di ridurre il problema del surriscaldamento degli appartamenti, nel cambiare le caldaie, nel mettere a posto, no? E invece no, che cosa si fa? Si bloccano le auto, perché quello è il sistema più semplice per dare un segnale concreto. Poi tra tre giorni è tutto uguale, si invoca la pioggia, ma non lo so, mi sembra il classico palliativo che tutti i sindaci, qui non c'entra polemica con nessuna parte politica, tutti i sindaci cosa fanno? Bloccano il traffico, cioè, o meglio, mettono le limitazioni. Ecco, è qui che i vecchi 3-3 potevano agevolare. Che cosa ne pensate del blocco del traffico? Per me, ma parla strunza! Ecco, io per esempio la penso così. Però, ecco, vedi, per questa ragione la scorsa settimana in un negozio sono stata malissimo, c'erano 40 gradi. Provate a entrare a Milano, in questi luoghi dove tutti entrano, e entri da fuori, quindi entri dal freddo, entri, c'è una vampata di calore che ti sembra di essere sbarcato a Bangkok di colpo nella stagione umida. Vabbè, pensate a quelli che ci lavorano lì, magari soprattutto i buttafuori, quelli che fanno i controllori, che stanno sulla porta e che si vedono queste ventate di calore addosso. Ma mi ha colpito, a proposito di sconforto, un articolo invece in prima pagina della Stampa. Mattia Feltri scrive: attenzione, perché questa è una ricerca fatta da Euromedia Research di Alessandra Ghisleri, che riguarda noi italiani e parla di antisemitismo. È una prima ricerca approfondita su cosa ne pensiamo noi del tema, non solo Shoah, ma noi e gli ebrei. E guardate che mi hanno molto impressionato alcuni dati. Per esempio, pensate che l'1,3% di italiani nega la Shoah. Oh, guardate che 1,3%, uno può dire, vabbè, è l'1,3%, ma 1,3% non è poco, sono 700.000 persone. Cioè, ci sono 700.000 persone in Italia, percentualmente, che negano, che sono negazionisti, dicono la Shoah non è mai esistita, è un'invenzione. Ma ce ne sono di più, che è circa il 10% invece, che dicono non è vero che sono morti 6 milioni di ebrei, cioè la cifra è un'esagerazione. Ma poi ci sono il 6,1% di intervistati che si dichiara poco favorevole o non favorevole alla religione ebraica. Il 14% degli intervistati ritiene che i palestinesi siano vittime di un genocidio da parte di Israele. Qui però si entra in una questione politica più che altro. L'11,6%, attenzione, questo è anche un dato molto interessante, l'11,6% degli intervistati ritiene che gli ebrei dispongano di un soverchio potere economico finanziario internazionale, che è una delle cause per le quali si è giustificato nei millenni il genocidio, i vari genocidi. Il 10,7% ritiene che non abbiano cura della società ma soltanto della loro cerchia religiosa. L'8,4% degli intervistati ritiene che loro, gli ebrei, si ritengano superiori agli altri. E così via, insomma, così l'Italia si scopre antisemita, gli ebrei hanno troppo potere. Mi hanno abbastanza impressionato questi dati. Non so se impressionano anche il primo ospite, che abbiamo chiamato per altri motivi, è già stato con noi, però insegna storia e filosofia al liceo classico a Treviso, quindi queste tematiche le conosce, il professor Antonio Silvio Calò. Buongiorno professore. Buongiorno a voi e buongiorno a voi ascoltatori. Grazie. Ben ritrovato. Lei che insegna storia, la impressione a sentire che l'1,3% degli intervistati nega addirittura l'esistenza della Shoah, abbastanza. Sì, è impressionante per tanti motivi, ma io recentemente sono uscito fuori infatti con un mio pensiero a riguardo e provocatoriamente, in modo chiaro, insomma, ma in modo provocatorio, ho voluto a tutti i costi definirmi anch'io ebreo. Perché qua il problema fondamentale secondo me è proprio questo, cioè uscire fuori da certe forme di schematismo che chiudono i confini, che chiudono qualsiasi tipo di relazione vera con l'altro. Sono d'accordo con lei. Allora, forse il professor Calò ve lo ricordate, visto che spesso in tema di immigrazione, qual è la frase che si sente dire più spesso dai qualunquisti? Prendili a casa tua, prendili tu se sei capace. Quante volte l'avete sentita, cari ascoltatori, questa frase? Sì, prenditene tu un po' a casa. Allora, il professor Calò, non so se è, come dire, stimolato da questa frase molto qualunquista, però ha detto, sapete che c'è? Allora io mi riprendo a casa. E lei negli ultimi anni con la moglie ha vissuto con sei migranti. Da dove venivano? Costa d'Avorio, Gambia, Guinea Bissau, Ghana, insomma, Ghana, un po' vari paesi. Sei migranti hanno vissuto con lei. Sì, un'esperienza straordinaria, le dico la sincera verità. E un'esperienza che rifarei. Quando si apre la porta non la si chiude più. E quindi noi stiamo continuando adesso a vivere questa esperienza in altra formula, con un'altra formula, perché tutti questi ragazzi, e qua devo essere sincero, ringrazio tutte le persone che ci hanno aiutato, oggi come oggi sono usciti fuori di casa, come è giusto che sia quando un ragazzo diventa adulto e trova la propria autonomia. Certo. E loro sono andati a abitare in una loro casa, hanno un loro lavoro, hanno un'identità giuridica e finalmente l'inserimento, come l'ho sempre sognato, è chiuso il cerchio. Sì. Questa è una cosa bellissima. Io li voglio citare perché c'è una foto apparsa su Repubblica anche molto efficace dal punto di vista dell'impatto visivo. Sayu dal Gambia, 30 anni, che ora è addetto in un'industria di lavorati per gelati. Tijan dalla Guinea Bissau, aiuto cuoco. Certo. Poi Saed dal Ghana ha trovato lavoro come saldatore. Sì. Brahima, Guinea Bissau, cuoco, anzi aiuto cuoco anche lui. Mohammed, 30 anni dal Gambia, operaio. E Siaka, Costa d'Avorio, lavora in una cooperativa agricola. Sì, esatto. Impressionante. Voi avete pure 4 figli. Ma come fate, scusi professor, cioè come avete fatto in questi 5 anni? No, adesso... bravissimi i miei figli che hanno fatto da ponte tra noi e questi ragazzi, perché avendo anche loro la stessa età, pian pianino sono diventati velocissimi fratelli, e infatti adesso, anche se sono usciti fuori, la cosa bella è che proprio si è creata una familiarità che è diventata proprio famiglia, nel senso che noi siamo chiamati mamma e papà e loro si rapportano come fratelli. Sì. E tanta disponibilità, tanta consapevolezza che stavamo facendo una cosa bella. E che il bene genera bene e fa bene a chi fa il bene. Quante critiche ha ricevuto in questi 5 anni? Avete ricevuto? Tante, le dico la sincerità, tantissime. Però non possiamo dimenticare che le critiche poi vanno posizionate, riposizionate, messe nel loro alveo, cioè se le critiche vengono dalle persone che ci hanno conosciuto, che sono venuti a casa tua e che hanno visto e vissuto l'esperienza in maniera, diciamo, più diretta, allora avrebbero avuto un peso diverso. Ma la stragrande maggioranza delle critiche di tutte persone che non ci conoscono neanche, che non sono mai venuti a incontrare questi ragazzi, che spesso e volentieri non conoscono e non si sono mai avvicinati a queste problematiche se non per sentito dire, e allora queste critiche valgono ben poco per me. Senta, ma chi erano queste persone? Chi sono queste persone? Scappavano da guerre, migranti economici, sono persone allora, in difficoltà? La stragrande maggioranza delle persone che vengono da noi, l'errore che si fa è volere a tutti i costi classificare. Sì. E quindi io non sono per la classificazione tra migranti economici, migranti non economici e via dicendo, no, c'è il migrante e c'è la persona che cerca di dare una maggior dignità alla propria vita, un valore diverso alla propria vita. Questo è successo in tutte le epoche storiche e succede anche oggi. Sì. Oggi tocca a loro, ma un domani toccherebbe a noi, e già toccato anche a noi. È toccato a loro in passato, cioè sono persone, esatto, che vogliono andare a vivere in un posto dove si, certo, vive, certo, dove si vive meglio. La grande maggioranza di quelli che arrivano sono emigranti, come noi li classifichiamo economicamente parlando. Però quando si dice aiutiamoli a casa loro, mi piacerebbe che la gente cominciasse a pensare che la casa loro non esiste neanche. Mm. E quindi talvolta è veramente così. È una presa in giro. Sì, talvolta è così. Poi qui ci si divide tra coloro che dicono se casa loro non esiste, non è colpa, come dire, solo nostra, ma magari dovrebbero, come dire, rivolgersi ai governanti loro. Questo per... Certamente, oppure... però vorrei che fosse chiaro, a livello storico attuale, l'intera Africa è instabile politicamente. Questa instabilità politica è sistematica, cioè non è una cosa momentanea, si protrae da almeno 50 anni, da quando ci sono state anche tutte le indipendenze del caso. E guarda caso, questa instabilità politica, e spesso dietro questa instabilità politica ci sono interessi enormi da parte delle ex colonie, e le quali agiscono ancora senza problemi, e c'è, si è formata un'altra forma di colonialismo economico che ha un peso sostanziale sul futuro di queste persone sull'Africa. Senta, professor Calò, ovviamente arrivano a qualche complimento, ma anche a tante critiche, come certo, lei è abituato ad affrontare qui in diretta, nei messaggi. Le leggo alcune, eccola qua, il classico: ha rubato 6 posti di lavoro a 6 italiani. Dica a questo signore che quando io mi presentavo al tirocinio professionalizzante presso le aziende, che poi ha portato al lavoro, sì, chiedevo sempre che se c'era prima un italiano che volesse fare quel tirocinio, prima gli italiani, lo dica a questo signore. E poi dicevo sempre un'altra cosa, che se c'era una persona, tipo una signora che era in maternità, chiaramente non andava a occupare quel posto, e se c'era un cassa integrato chiaramente non andava a occupare quel posto. Quindi i ragazzi, se hanno iniziato a fare tirocinio e perché lavorare, non c'erano, perché non c'erano, non c'era italiani, nessuno che volesse farlo, lo dica. Secondo no, ma giusto, lo sta dicendo lei, sta rispondendo e mi fa molto piacere. Assolutamente. Come un altro messaggio che arriva, chiede al professore quanti poveri ha aiutato. Il messaggio di testo sottinteso è, immagino, poveri italiani, perché lei mi ha aiutati sempre. Questo momento accoglie nella propria nuova dimensione, io sì, sono in una canonica, adesso vivo in canonica, sì, il professor Calò accoglie degli italiani svantaggiati. Ah, ecco, questo non lo sapevo. Non è questione di bianco e nero, voglio indicare una cosa fondamentale: il tema dell'accoglienza non va appiattito solo, e l'ho sempre detto per chi mi conosce, sulla questione africani. Mm-hmm. O migranti, ma persone in difficoltà. Il tema dell'accoglienza va gestito a livello generale, perché è il tema della vita. Tutti noi abbiamo bisogno di sentirci accolti, e ci sono tantissimi, sono io il primo a saperlo, di tantissimi italiani che hanno bisogno. Io sto cercando di accogliere soprattutto giovani, perché i giovani sono l'elemento più fragile, e adesso a casa, presso la canonica dove abito, ci sono anche 2 italiani oltre a uno del Mali. Ma io ho sempre detto, che per chi, ripeto sempre, mi ha ascoltato e mi segue, che prima di accogliere questi africani, a suo tempo, nella casa mia, io ho accolto sempre dei giovani. Giovani bisognosi, giovani che avevano bisogno appunto di un ascolto, di una dimensione di accoglienza, per ripartire poi successivamente in modo più sereno. Ma guardi, io credo che la forza della sua tranquilla esposizione dei fatti poi le dà ragione, dopodiché i critici ci saranno sempre, come guardi, l'ascoltatore che scrive spero che gli cada la canonica in testa, ma voglio dire, ma la stupidità c'è sempre, viva la ringrazio moltissimo. moltissimo. Io voglio dire sempre a tutti, ho sempre detto a tutti, venite e vedete. Il modo più giusto per incontrare il mondo è incontrarlo. E per incontrarlo direttamente bisogna incontrare gli occhi delle persone, non gli oggetti. Dopodiché, non per, i paesaggi, per, ma gli occhi delle persone. Per concludere, e io la ringrazio, professor Calò, rimane sempre la curiosità di come avete fatto. Cioè, io non è che voglia fargli i conti in tasca, no? Però tecnicamente come avete fatto, sinceramente? Tecnicamente, cioè, prendevate economico, che è una delle altre questioni fondamentali che viene affrontata sempre. Cioè, eravate in un meccanismo per cui prendevate in qualche modo un rimborso? È giusto che gli italiani sappiano, sì. Ma io sono disposto ad andare in giro per tutta Italia a raccontare quello che sto raccontando a lei. È giusto che gli italiani sappiano che non esiste una legislazione in grado di poter dare la possibilità alla famiglia di accogliere direttamente dei migranti. Esatto. Quindi tutte le famiglie che hanno accolto hanno dovuto appoggiarsi a delle cooperative, delle associazioni che erano convenzionate con le prefetture. Perfetto. Quando c'era l'emergenza profughi. E così è stato anche per me. Quindi il professor Calò e la propria famiglia non ha mai avuto direttamente un soldo. No, direttamente no. Io però andavo direttamente in cooperativa, e la cooperativa di volta in volta mi dava i soldi per che cosa? Per il vitto alloggio. E per io ho chiesto come famiglia soltanto il raddoppio delle bollette, perché da 6 siamo passati a 12. Quindi dei 30 famosi euro, e non 35 nel caso nostro, che davano a ogni ragazzo, sì, a quel tempo, tenga presente che io indirettamente comunque noi ci siamo staccati dal sistema accoglienza dal marzo del 2017, perché tutti i miei ragazzi già lavoravano dal marzo 2017, e quindi non abbiamo giustamente ricevuto più soldi, ma indirettamente. Ma quando li ricevavamo, noi avevamo chiesto appunto soltanto chiaramente il vitto e appunto questo rimborso spese per ciò che riguarda le bollette. Tutto il resto, ed è questo è giusto che si sappia, perché così diventa una risorsa e non diventa una cosa bellissima, tutti i soldi servivano per aver assunto un'operatrice italiana DOC d'origine controllata e garantita del posto, sì, per pagare una psicologa DOC d'origine garantita del posto, per pagare un insegnante DOC d'origine garantita del posto, per pagare gli insegnanti della scuola dove sono andati, per pagare le agenzie sportive dove loro hanno fruito dello sport, soldi sono stati impiegati per dare una possibilità ad altre persone italiane di vivere un'esperienza positiva. Mi piace l'espressione che lei dice, per dar lavoro a gente DOC di OCG, del posto, garantita, perché del posto. No, professor Calò, io nel ringraziarla per questo suo racconto, ma tanto i critici rimarranno i critici. Ha detto per esempio che in questo momento sta aiutando anche degli italiani, e prima di questi 6 migranti ha aiutato degli italiani, ma arriva la domanda: e gli italiani? Con 7 punti di domanda. Quindi voglio dire, lei può anche dire di aver aiutato gli italiani, che la gente le chiederà: e gli italiani? Tanto ormai la tecnica moderna è semplicemente urlare: e gli italiani? Cosa ha fatto per gli italiani? Ma ci ha appena detto che ha fatto delle cose anche per gli italiani. E tu che hai detto: e gli italiani? Che cosa stai facendo per gli italiani? Boh, non si sa. Comunque, ringrazio il professor Antonio Silvio Calò, insegnante di storia e filosofia al liceo classico Canova di Treviso, e che ha fatto questa esperienza e ce l'ha raccontata. E se siete contenti, bene; se rimanete con le vostre idee e auspicate, come un ascoltatore, che gli cada la canonica in testa uccidendo delle persone, rimanete con la vostra malsana idea. Tanto queste sono persone perdute che non possiamo più convincere, perché credo che siano anche maggiorenni, vaccinate, adulte, quindi hanno delle posizioni ben consolidate. Evviva, cioè si fa per dire. Dopodiché ci sono anche tante persone invece che dicono e mostrano solidarietà al professor Calò, che come ci ha spiegato ha fatto anche un lavoro che ha permesso di mettere in circolo un'economia per salvare e aiutare, per dare da mangiare a persone DOCG, di denominazione origine controllata e garantita del posto, Trevigiani DOC, col pedigree da 25 generazioni trevigiani. Pubblici. 1, nessuno, 100 Milan. Chi nega la Shoah basterebbe fargli fare una gita dove si sono commesse le atrocità più incredibili del mondo, così almeno magari dopo riescono a capire che cosa vuol dire. Ti dirà che c'erano gli attori, forse. Vabbè. Per me il blocco del traffico è una cagata pazzesca. A me, ma parla struzza! Mancavano i 92 minuti di applausi qui di Fantozzi, però. Ci siamo? No. Buongiorno. Ho un amico che ha un'auto di 30 anni che sembra che vada a legna. L'hanno passata storica e dà pure il bollo agevolato e può circolare quando vuole. Vabbè. Milan, a proposito di lavoro, i calciatori assicurano le gambe. Voi cosa assicurate? La lingua? Sì, perché da ieri, caro Leonardo Manera, si è sparsa questa... C'è una disistima di fondo, disistima totale verso chi fa questi lavori. Io la condivido, peraltro. Sì, ma infatti, ho detto anch'io, voi pensate che noi non lavoriamo. Noi siamo d'accordo, è una polemica sterile, finita, punto, a capo. Bisognerebbe rilanciare quella rubrica delle polemiche sterili, anche senza rubrica, perché ci sono lo stesso delle polemiche sterili. No? Sì. Esatto. Ben trovato. Come sta? Come sta Jimmy? Guarda, mi hanno detto appunto, mi ha maledetto subito sulla voce. Come sta Jimmy? Signor Jimmy sta bene, ma siccome lui ha una casa a Bergamo, sono giorni che non va a Bergamo perché c'è questo problema. C'è questo problema a Bergamo della meningite, no? Quindi non vuole rischiare. Quindi sta qui in zona e non torna a Bergamo. Ho letto che c'è tra l'altro una vera psicosi adesso. Sì, in c'è, zona c'è un nuovo caso anche ieri. Gente che, non so, a messa non si danno la mano del Signore della Pace per evitare contatti. Effettivamente, insomma, è una paura. Pare che in zona siano anche spariti i Novax. I Novax. Meno male, sì. Meno male, almeno su questo. Allora, 9:39 minuti, ora vogliamo parlare di mense scolastiche. So che è un tema molto molto sentito da tantissimi genitori. Tu ti preoccupi, cioè nel senso, io ho sbagliato la domanda, no? È vero che ti preoccupi come tutti, come anch'io, ma sei così attento a capire cosa mangiano tuo figlio, gli chiedi il menù, verifichi. Sì, qualche volta gli chiedo cosa hai mangiato oggi a pranzo, ti avevo già raccontato. È una classica domanda quando non sai che domanda fare a tuo figlio. Questo è vero. Però lui ogni tanto mi dice: ho mangiato la spugna, te l'avevo già detto. Ah, sì, la sì, spugna, che è la frittata praticamente. La frittata della mensa viene chiamata spugna. Non so, sottoponiamo questa recensione gastronomica del figlio di Leonardo Manera a Claudia Paltrinieri. Buongiorno. Buongiorno. Claudia Paltrinieri, direttrice di Food Insider, ha scritto anche un libro dal titolo Mangiare a scuola, edito da Franco Angeli, in cui, attenzione perché ci sono tutte le classifiche, dove si mangia meglio, dove si mangia peggio. La spugna l'ha mai sentita? E come no, se l'ho sentita, la conosco bene. La spugna. Ci sono altri che dicono: mio figlio gli danno la spugna, la chiama. Sì, diciamo che è abbastanza rinomata, perché le frittate fatte con l'uovo pastorizzato spesso danno questo riscontro di un effetto spugna. Però per la fortuna vuole che c'è una realtà che conosco anche a livello industriale che invece non usa l'uovo pastorizzato, ma le uova fresche. E ogni volta che c'è la frittata rompono 14.000 uova fresche. Accidenti. E il risultato, a detta dei bambini, delle famiglie e delle insegnanti, è decisamente diverso. Ora vorremmo sapere tutti dov'è questa scuola e questa realtà, che così andiamo tutti a iscrivere i nostri figli. Dov'è questa realtà? Purtroppo non è a Sesto Fiorentino, in Toscana. Sesto Fiorentino. Esatto. Un altro classico, sempre sento ogni tanto la pasta con le zucchine, un altro super classico, pasta in bianco con le verdure tipo zucchine. Sì, sì, quella è abbastanza frequente, ma quella che piace di più ai bambini è tipicamente la pasta in bianco. La pasta in bianco. Allora, perché il meno peggio, il meno peggio. È un bel segnale, sì, la pasta in bianco. Però, allora, in questo libro si racconta, in generale, se dovesse fare una fotografia generale, statisticamente, di come si mangia nelle mense scolastiche, il pollice è su o il pollice è in giù? Il pollice è medio-basso, perché dalla nostra classifica su una cinquantina di menù analizzati solo una decina sono al di sopra di un punteggio che li rende, li definisce dei buoni menù. Sì. La maggior parte sono nella fascia del mediocre. Ma questo perché? La qualità dei prodotti, il modo in cui sono conservati, qual è il problema essenziale? Il problema essenziale è che oggi la mensa è considerata uno strumento di guadagno, di business, quindi diciamo che meno il cibo è di qualità e soprattutto meno si lavora la materia prima, ma più si punta sul cibo processato, quindi già pronto all'uso, perché la cosa più costosa non è tanto la materia prima ma il costo del personale. E quindi si tende a privilegiare un cibo processato, giusto da scaldare, poi trasportare direttamente nelle scuole. Quindi c'è questa logica della cucina industriale, dove si assemblano i piatti, si lasciano al caldo per un po' di ore in attesa che arrivi poi il camioncino da portare il pasto a scuola, e tutto questo messo nell'insieme porta un grave declino alla qualità organolettica del pasto. Sì. Però ci sono appunto delle eccellenze. Beh, di Sesto Fiorentino ce l'ha detto, se ho capito bene, Fano è una realtà dove il punteggio che voi avete riscontrato è più alto, è vero? Ma non c'è solo, sì, Fano. No, la cosa interessante per esempio è la regione Marche, che nella nostra top 10 offre ben 3 comuni. Il primo è Fano, nella top della classifica, poi c'è Iesi e Macerata. E come perché, mai? Qual è la ricetta fortunata delle Marche? Quello ci ho riflettuto parecchio, e alla fine la sintesi è che è una cultura. La cultura della regione, ma anche la cultura di chi amministra e ha una visione, una competenza, e quindi punta ad avere un modello di ristorazione scolastica sano, legato al territorio e con dei percorsi di educazione però importanti. Mi scusi, la cultura gastronomica c'è un po' in tutta Italia e tutti hanno figli, quindi tutti sono intenzionati a dare il meglio ai propri figli, quindi in teoria dovrebbe essere una cosa proprio... Non è proprio così, perché no? Io mi ricordo che ho parlato una volta con un esperto di mensa, uno dei maggiori registi delle mense migliori d'Italia, che lavora nelle regioni Marche, e mi disse: se noi nelle Marche dovessimo mangiare quello che voi mangiate a Milano, ci sarebbe la rivoluzione. E questo dà un po' la sintesi. Però no? Questo lo dicono in molte regioni, no? Più vai poi tra l'altro verso sud, più dicono fanno, così. Lo fanno, nel senso, dovrebbe essere una logica che c'è magari anche in Campania piuttosto che in Abruzzo. Diciamo così che al sud si punta di più sul cibo locale, sulla cultura locale. Al nord si tende, soprattutto Piemonte e Lombardia, ancora a privilegiare un cibo più industriale, perché sta un po' nella logica culturale, no? Dell'efficienza. E quindi poi colpisce il caso di Bolzano e Trento, dove ho letto, ne raccontava anche il Fatto Quotidiano ieri, a Bolzano addirittura viene specificato dei cibi che vengono dati alle mense se sono DOP, cioè di denominazione protetta, se sono del luogo, no? C'è questa... Sì, Bolzano è un bellissimo esempio, perché leggendo il menù di Bolzano si capisce la fierezza del menù, e soprattutto del fatto di attingere ai prodotti locali, ai piatti tipici, a prodotti di alta qualità, per cui il menù di Bolzano è un menù parlante, perché dice tutto, quello che, ciò che è fresco, ciò che è filiera corta, l'ecosolidale, il DOP, IGP, il prodotto tipico, se è fatto nella cucina interna, è proprio un menù fiero. E questo fa riscontro e fa confronto rispetto invece a quei menù dove si dice pesce, oppure pesce, verdura di stagione. E poi il pesce è sempre il palombo. No, c'è stato il periodo del pangasio o il palombo, poi il pesce spatola anche. No, diciamo che la grande va al bastoncino di pesce, o sì, la platessa impanata. Però guardi, arriva da Valentina, da Monsano, provincia Ancona, quindi nelle Marche. I miei figli sono dei mangioni alla mensa. E vede che allora le Marche, evidentemente, le anche Marche però sono un modello. Anche se il cibo a volte è industriale, comunque non è dannoso per i nostri figli. No, no, ci mancherebbe. Dal punto di vista igienico è tutto assolutamente garantito. Quello che è meno garantito è il potere nutrizionale dei cibi, sì, perché i cibi processati sicuramente hanno perso molti degli antiossidanti, sì, delle vitamine. Qui non parliamo dei casi dove poi intervengono i NAS, voglio dire, quelli sono altre situazioni. Voi parlate della qualità tenendo conto che tutti rispettino le norme igienico-sanitarie di base. Ecco, poi dopo entrate a discutere sulla qualità, la differenza di qualità tra le varie. Assolutamente, sì, sì, i protocolli HACCP li diamo per scontati, cioè sono un must, perché su quello sì si pregiudica la salute dei bambini. In conclusione, qual è la realtà sulla quale dovreste dire forza, datevi da fare, perché siete un po' indietro? Dov'è che avete riscontrato più problematiche? Io non amo mai parlare sempre male, perché me lo chiedono sempre i giornalisti. No, no, però abbiamo detto anche delle eccellenze, abbiamo detto. No, certo. Ma diciamo che nella nostra ultima classifica le peggiori erano Verona e Latina, una perché aveva Latina una dominanza di cibo processato e Verona una dominanza di carne, un'ossessione della carne, oserei dire. Ok. Va su 20 bene, pasti, 15 erano a base di carne. Abbiamo detto anche l'eccellenza, quindi ci siamo salvati così. Noi la ringraziamo, Claudia. Grazie. Paltrinieri, leggete il libro se volete, Mangiare a scuola, edito da Franco Angeli, ma poi è direttrice di Food Insider. Caro Leonardo, guarda, qua arriva anche un messaggio. E perché non parliamo del cibo degli ospedali? Tu ci hai fatto un gran pezzo, uno dei tanti pezzi della tua carriera, insomma, il simbolino. Io sono contento che mio figlio non mangi gourmet a scuola, così la sera quando gli cucino io apprezza quello che faccio io. Ecco, esatto. Dai, andiamo al traffico. Maestro SD-One, aiutami! Le reti della mia azienda stanno passando al lato oscuro! Non temere, ecco la tua arma. La fibra intelligente di Iridios. È intelligente perché ha sempre tutto sotto controllo. Accessi, cloud, applicazioni. Si integra con tutte le tecnologie. ADSL, fibra, wireless di qualunque operatore. E poi si attiva in un laser. Volevo dire in un lampo. Vai su fibraintelligente.it. Fibra intelligente. La soluzione SD-One di Iridios. Il nuovo polo ICT italiano dedicato alle aziende. Uno, nessuno, 100 Milan. Nei tempi, metà anni 70, quando non si mangiava e si arrivava a casa, mia mamma la mi diceva: hai mangiato? A mangiare a scuola? E dicevo no. Pane e caffè latte a cena. Ha capì? Oggi Massimo Gramellini racconta in prima pagina del Corriere della Sera la dieta di Fiorello. Fiorello pare che sia dimagrito così con il dinner cancelling, cioè praticamente due sere a settimana salta la cena per non appesantirsi. Insomma, comunque sai che Fano di cui parlavamo sì prima, è una città che io pensa che io apprezzo. Ogni volta che torno da sud verso nord di sera e sono in zona, mi fermo a dormire a Fano. Perché come c'è in un, te lo spiego. C'è in un hotel un portiere di notte, sì, che è affascinante come modo di presentarsi, come modo di vestire, per quindi i capelli. Dormi lì per lui? Sì, oh, voglio vederlo. Voglio vedere il portiere di notte. Poi c'è la zona al mare, le torrette di Fano e così via. Però la cosa interessante di Fano è il portiere di notte di questo hotel. Benissimo. Pensa se cambia lavoro. La disperazione in maniera. Famoso il portiere di notte, anche il maestro. Questi giorni si fa un gran parlare di Harry e Meghan, che vogliono rinunciare alle loro prerogative reali e andarsi a cercare un lavoro. E allora tutti a elogiarli, tutti a dire quanto sono bravi, a volersi guadagnare la pagnotta, come facciamo tutti noi comuni mortali. State tranquilli, non è così. Harry e Meghan possono anche rinunciare a tutto quello che vogliono, ai loro titoli, alla successione al trono, che peraltro non ci sarebbe poi stata praticamente mai. Possono rinunciare a parte dei loro introiti reali, ma non saranno mai come noi, perché giocano in un altro campionato. È come quando un calciatore di Serie A si trova a fare due tiri con degli amatori. Gli amatori per un attimo si illudono di essere come il calciatore professionista, ma poi bastano pochi minuti per capire che la situazione non è proprio così. Perché il calciatore di Serie A gioca in un altro campionato e può, volendo, compiacere gli amatori, ma la sua vita, il suo gioco è tutt'altra cosa. E lo stesso vale per Harry e Meghan. Possono forse anche darci l'illusione di voler vivere una vita normale come la nostra, ma il loro campionato è troppo diverso dal nostro. Il nostro campionato è quasi sempre come quello che si gioca nei campi di periferia, dove bisogna sopravvivere a calci e calcioni, ai campi ghiacciati, a tifosi violenti. Il nostro campionato comincia quasi sempre di mattina con le occhiaie, quando suonano la sveglia in camera da letto, un caffè latte con dei biscotti pieni di fibra e la speranza di scaricarsi bene in bagno, che poi spesso è l'unica gioia della giornata. Prosegue in coda su qualche tangenziale o qualche semaforo o stretto in qualche antico treno pendolari, e quindi un lavoro con qualche momento gratificante e altri in cui preferiremmo essere sepolti in un campo di letame. Spesso prevalgono i secondi. Gli hai messo la base allegra, Alpino, come mai? Sì. Poi una pausa pranzo dove cerchiamo di sopravvivere alla mensa, appunto, dove la fibra mattutina e il benessere intestinale inevitabilmente cede il passo a oli di sconosciuta origine. Anche se sulla bottiglia c'è sempre scritto olio extravergine di oliva, ma è palese che è un falso. E la bottiglia è stata riempita con tutt'altro, più adatto a lubrificare un motore diesel che uno stomaco umano. Poi rientro a casa, tutto intorno a un tavolo dove spesso c'è più silenzio che in un convento, dal momento che ognuno è concentrato a interagire con lo smartphone, a volte unica fonte che riesce a stimolare la fantasia. Per finire magari una bella puntata del Grande Fratello VIP e poi tutti a letto, a sognare magari più denaro oppure una moglie col seno rifatto. La vita di tutti noi spesso procede così, certo, con qualche momento gratificante, tanti momenti di fatica, di sofferenza, di aspettative che qualche volta vengono soddisfatte e spesso frustrate. Ma è un campionato dove si lotta, dove più che la Juventus si assomiglia, per dire, al Genoa o alla Spal. Il campionato di Harry e Meghan è e sarà sempre comunque diverso, anche se rinunceranno a tutto. Lui per nascita, lei per matrimonio ricevuto, d'ora in avanti potranno godere di privilegi sconosciuti a tutti noi. Appariranno tutti come molto democratici e vicini al popolo, ma non credo che dovranno mai misurarsi con le pulizie del sabato mattina, le pattine, lavare e stendere i panni. E per questo io li invidio moltissimo. Beati loro, con o senza titoli reali, con o senza trono. Perché è invidia la tua, certo, si capisce, che invidia, si capisce. Ma tantissimo, perché non dovrei invidiarli? Insomma, sono semplicemente degli straricconi. Perché Bill Gates, secondo te, come dire... Per carità, dico solo che loro non è che con questa mossa sono diventati come noi. No, sembra no, che no, andranno no. A cercarsi un lavoro, non è che vanno ma a fare... No, ecco. Ma no, hanno già depositato il marchio lì, Duchi di Sussex. Cioè, pare che se lei farà una linea di prodotti cosmetici, è già stata stimata in tot miliardi e milioni. Appunto, dico, non so, è un po' retorica, no? Quella che si dice, vanno a lavorare. Una bella bravi intervista come alla BBC, 200.000 euro. Punto. Cioè, così. Allora, bene, la seconda ora di Uno Nessuno 100.000 parte dopo il giornale radio. Uno Nessuno 100.000. Come si fa a vivere? Io stavo pensando proprio al lavoro politico, no? Tu passi mesi, gli anni, solo a fare tweet e comizi. Ma quando ti prenderai una giornata per approfondire qualche argomento? Non voglio dire per leggerti magari qualche libro, vabbè. È il 200° anniversario dell'Infinito di Leopardi. Fatti un comizio in meno e leggiti l'Infinito, beh. Ti riconcili con la vita, con i sentimenti profondi, con le emozioni che ti può dare uno come Leopardi. Vabbè, il presidente della regione Campania De Luca, che chissà con chi ce l'aveva, secondo te, a chi si riferiva? Beh, ma anche lui mi sembra che non sia, diciamo, non si misuri molto quanto a esternazioni. No, sicuramente. Quindi... Ma queste sono le sue pseudo interviste che fa quotidiani, sì, settimanali, a Lira TV, Lira TV, credo, da qui sia stato preso. Che non sono delle interviste, stupendo, sono dei monologhi. Dei monologhi con giornalista presente, no? Esatto. Con presenza di giornalista. Allora, 10 e 8 minuti, ci siamo alla seconda ora di Uno Nessuno 100.000. Io ieri ho detto, guardate, sono incuriositissimo, voglio sapere tutto di quelle che sono state definite, con grande rispetto, anche le suore squat, le occupatrici, le occupanti abusive o non abusive, non si sa. Stiamo parlando, in maniera simpatica ovviamente, lo dico, con della vicenda di Marradi, provincia di Firenze, dove c'è un convento. Ci sono delle suore di clausura, sono rimaste, secondo quanto si è capito, in quattro, e secondo una regola canonica che non conosco, eccetera, sotto il numero di cinque non hanno più diritto a costituire una comunità e quindi stanno cercando di dire dovete lasciare il convento, e loro si rifiutano di lasciare il convento dicendo questa è casa nostra. Hanno fatto casa... l'occupazione del convento. E qui figurarsi l'aneddotica che si è, no, prodotta dicendo le suore che occupano il convento. Saluto Paolo Bassetti, che è l'ex sindaco di Marradi. Buongiorno, buongiorno Bassetti. Grazie. Buongiorno. Tra l'altro tutti hanno raccontato, lei è in prima fila, insomma ha preso a cuore la vicenda, hanno raccontato tutti anche la sua parentela con il presidente della CEI, il cardinal Bassetti, quindi lei in qualche modo insomma ci aiuti a capire intanto da che parte sta, cioè sta dalla parte delle suore, se ho capito bene. Io sto dalla parte del buon senso, io sono un maradese, ho 70 anni, sono nato a 100 metri dal convento, ho sentito nella sua, diciamo, introduzione, dice occupazione abusiva, loro sono lì da quasi 500 anni, è vero, questo è, vero. È un pezzo di storia del nostro, della nostra comunità, del nostro comune. Il convento è stato, è del monastero delle Domenicane di Marradi, perché è stato costruito con i denari delle famiglie bene, diciamo, dei secoli scorsi, che davano, mettevano una figliola all'interno del monastero e gli davano, sì, anche una dote, e hanno contribuito sostanzialmente, sì, a... E poi lei dice che, ma che noia danno queste suore che non pesano sulla comunità. Non danno noia, sono autonomi, non chiedono niente, non costano alla collettività, non costano alla comunità locale, non si capisce il modo, io dico anche, con cui loro hanno gestito. Ma loro cosa. Chi? Cioè, nel senso, chi è loro, che è venuto a bussare? L'ordine, diciamo, l'ordine di appartenenza. L'ordine romano, che si chiama, adesso il termine esatto, che è la congregazione delle consacrate. Certo. C'è questa regola, sono rimaste in quattro. Che dice che sotto i cinque perdono l'autonomia e sono, diciamo, non possono più eleggere la madre superiore, decade il capitolo. Sì. Però la corona, che è, diciamo, questa norma che stabilisce questa cosa, dà anche, c'è sempre una via d'uscita, dà la possibilità ai monasteri di fare le affiliazioni. Con, sì, l'affiliazione tornano più di 4, più di 5. Tornano più di 4, perché noi avevamo, le suore avevano, hanno tentato e hanno ottenuto a dicembre del 2018 l'affiliazione col monastero di Castel Bolognese, che è in provincia di Ravenna, a 50 km. Ma senta un po', ma questa vicenda che è finita sui giornali appunto come l'occupazione delle, sì, certo, no, non l'occupazione, in realtà, dai, loro sono dentro, però ci sono sempre dei titoli, come però, dire, effetto, sì, sono, diciamo, d'accordo. Si oppongono a uno sfratto, ecco, questo è anche lo sfratto, perché lo sfratto lo si dà a un moroso, uno che non paga l'affitto, e uno, sì, che occupa in maniera, diciamo, non propria un locale, ecco, ma non è il suo coso, non è lo sfratto. Loro si oppongono a essere trasferiti in un altro monastero, vogliono, sì, rimanere lì, sì, perché è la loro casa. Ma lei ha capito alcune... perché che cosa farebbe questo ordine con questo monastero una volta se riuscissero Questo non è dato sapere. Ma io volevo, diciamo, spiegare che c'è stata questa affiliazione col monastero, sì, di Castel Bolognese, e dopo 4 mesi chi ha concesso l'affiliazione ha fatto la revoca senza spiegare al monastero e anche alla comunità locale il motivo per cui, diciamo, è stata revocata questa cosa. Sì, sì. Con un monastero di clausura, del solito ordine, con una decina di suore, che la madre superiore di questo monastero si era presa in carico anche il monastero di Marrani, perciò ci poteva essere un interscambio di persone. E in più, diciamo, va detto che sono anche molto, alcune, due sono anziane, e una 90 anni, e i muri del monastero trasudano dei volti delle suore che hanno passato lì una vita intera. Sì, spostarle, sì, vuol dire, diciamo, dargli un colpo mortale. Se vogliono, vogliono rimanere lì, alcune anche evidentemente passare gli ultimi anni. Fondo, è come per qualsiasi persona anziana. Sì, che... di disoccupazione. Sì, sì, e certo. Hanno la chiesa, no, no, ma è chiaro, sono autonome, ma in realtà, ma possono avere contatto con la comunità o sono di clausura e quindi... No, loro sono di clausura, no, hanno quindi i contatti per la sopravvivenza, insomma, questo sì, però loro non, diciamo, in tutto questo battage pubblicitario non è che... Sì. Cioè non è che lei va lì, bussa e le rispondono? Beh, quello sì, insomma, forse. C'è un campanello, c'è una che risponde e dice, insomma... Rispondere al telefono ce l'hanno all'interno, rispondano, però non colloquiano se non ci sono, sì, dei motivi con, sì, sì, sì, c'è, certo, una grata che separa il monastero dalla chiesa e chiaro. E poi, sì, ecco, una cosa che mi preme dire è che finché c'è una fiammella accesa c'è la possibilità, diciamo, che il fuoco riprenda forza. Se noi questa fiammella la spengiamo, sicuramente, diciamo, è più difficile farla ripartire. Poi chi come me è un cattolico praticante, sì, che dà molta importanza alla preghiera, sapere che all'interno del nostro centro storico, perché c'è, insomma, del nostro paese, ci sono delle suore che pregano per il bene della nostra comunità, per, sì, il bene di tutti, pregano per non essere mandate via anche, pregano, in questo periodo. Forse anche per questo. E hanno fatto negli anni addietro tante cose per il bene. Senta, ma paese. È lei che è ex sindaco, ma anche cugino, sì, appunto, del Cardinal Bassetti, presidente della CEI, ha detto di avere scritto a suo cugino. L'ho scritto, gliel'ho comunicato. Comunicato, sì, dicendo così. Beh, l'avrà chiamato, Lui non ha autorità, però lui non lo vuole mettere, certo, non lo vuole mettere, non ha autorità perché ci sono gli ordini, e lui, sono sicuro, conoscendolo, che prega per noi prega. Insomma, mica si può risolvere tutto con la preghiera, però della preghiera, penso, ma... che sì, però Bassetti, non è che si può risolvere tutto con la preghiera, ci vorranno le risoluzioni, la provvidenza, ci penserà la provvidenza. No, la soluzione era quella della filiazione, che ritornino indietro e quindi riconcedano, gli diano la filiazione con Castelbuonese, con Monastero. Ma quante volte sono venuti i superiori? Due volte a bussare, a dire dove... per quanto ne sappia lei, come è avvenuta la comunicazione? Scusate, ma dovete lasciare il convento? E questo gli hanno detto. Loro, fra l'altro, la prima volta c'è stata la riunione della una commissione che poi ora è stata esautorata e l'avevano comunicato, ma i due interventi che hanno fatto a dicembre e quello della settimana scorsa senza nessun avviso, e dico anche in malo modo, perché se io vengo a trovarla a casa sua, anche se siamo, diciamo, amici o parenti, l'avviso giorno prima, dovete forse perché non rispondono, al telefono ma poi bisogna vedere anche con chi uno ha a che fare, persone che la vita che è dentro lì fra quattro mura in difesa di quella di là, insomma, a dire dovete andare via, uno con prepotenza fa fatica a entrare, capito? Sì, sì. Lei ne sappia la risposta della suora, quella che risponde al citofono, qual è stata? No, noi non ci no, ma la risposta ha detto che non ha aperto perché era impegnata, perché erano in preghiera. Le ha risposto, giusto, bene. Le ha risposto bene. Cioè, stiamo pregando. Si è ripassata tra un mese. Stiamo pregando. Hanno dato la disponibilità. La disponibilità ai loro superiori da Roma, penso il Vaticano, che gli avevano chiesto, diciamo, questi conventi di dimensioni, e poi dopo col calare delle vocazioni hanno spazi liberi, aveva dato la disponibilità anche ad accogliere persone che le facevano richieste, che ne avevano bisogno, perciò diciamo non è che sono arroccate all'interno, ma non è con l'olio bollente che buttano giù gli invasori, sono anche disposti ad diciamo, ad aprire il convento per quanto possibile, sì, perché è un convento di clausura per evitare che ne ha bisogno. Va bene, noi Paolo Bassetti la ringraziamo, sì. Ex sindaco di Marradi, stiamo a vedere come va a finire questa storia, se ritornano alla carica dall'ordine superiore e come le suore di clausura. Beh, bellissima la risposta, potresti farlo anche tu Manera, quando sarai barricato in casa, l'uomo sì. Grappa e ti verrò a chiamare a dire: ma dai Leonardo, Leo. Non posso, sono impegnato, sto pregando. Ma cosa devi fare che non fai neanche più spettacoli? Cosa stai facendo? Vieni giù al bar Jimmy a bere un aperitivo. No, sono barricato in casa, mi sto concentrando. Sai, ma che concentrando a fare cosa? Io ho conosciuto una monaca di clausura, una mia ex fidanzata. È vero, era fidanzata con me. Dopo che è stata fidanzata con me, subito dopo, è andata così. Io l'avevo conosciuta, mi piaceva moltissimo questa ragazza. Ci siamo frequentati un paio di mesi. Poi lei è andata a fare un viaggio a Medjugorje. Dice che a Medjugorje ha visto la Madonna e immediatamente dopo si è chiusa in un convento di clausura a Terlizzi, vicino a Bari. Io l'ho cercata sul telefono qualche volta. Sì, perché per convento di clausura. Sì, perché per i primi 15 giorni possono ancora tenere il telefono e poi lo devono spegnere. Ti ha risposto in questi 15 giorni? No, non mi ha risposto, ma io la penso ancora perché forse. Come si chiamava? Sara. Sara. Sara. Ed era una delle ragazze più belle che ho conosciuto e mi è dispiaciuto molto che abbia fatto questa scelta. Dopo essere stata con me è diventata monaca di clausura. Sara, monaca di clausura. E vabbè, hai chiamato Anacleto? Chiama Anacleto. Adesso vediamo, dopo il traffico. Uno, nessuno, 100 Milan. Allora, fermalo, mi scrive un ascoltatore col punto esclamativo, mentre Claudio da Reggio Emilia, che tiene il conto, dice: siamo a 41 fidanzate di quota. La Madonna ha fatto il miracolo, ha salvato la poveretta da una mesta vita insieme a Manera. Suor Sara, se ci sente dalla clausura di Terlizzi, ma io, Anacleto, senti un po'. No. Buongiorno, io sono qui stamattina all'ospedale di Brescia perché c'è una visita di controllo del diabete. C'era una signora, sì, cioè qui, che sentivano la radio, sì, Radio 24. Sì. E quando ha detto di questo signore, rinnova, perché nel 2020 ci sono sempre le puntate nuove, le bugie nuove, perché questa qui della monaca di clausura, io credo che sia il top per incominciare il 2020. Questa è oltre il Mozambico. Questa è veramente oltre il Mozambico, per davvero, hai capito? Cioè, con questa ha già vinto, ma il 2021 il premio nazionale, no, neanche il 2020. Io credo che si migliorerà in continuazione, capito? Perché non è mai sazio lui delle bugie, hai capito? È troppo bugiardo, per davvero. Sono l'uomo più sincero d'Italia. Io. Ma chi è stato buono, giuri, overati, si siede da monaca di clausura. Via. Però è bella l'immagine, uno conosce Manera e poi dice: aspetta che mi faccio monaca di clausura. È un'immagine bella, è un'immagine. Voglia te, mamma mia, per davvero, è incredibile quell'uomo. Dai, Anacleto, ti lasciamo, scusaci se ti abbiamo pescato in ospedale, salutaci tutti coloro che sono in ospedale, perché molto spesso ci ascoltano e non dobbiamo mai dimenticarci che quando siamo in una situazione di buona salute invece ci sono persone che ci ascoltano, a cui teniamo compagnia e che sono a fare un tagliando ovviamente mangiando di sera il semolino. Allora, non lo so se possiamo introdurre la nostra avvocata preferita che torna con noi con questa storia di Leonardo Manera, che ha conosciuto una donna e dopo averla conosciuta questa donna si è fatta suora di clausura, sì, a Terlizzi. Mi piacerebbe rivederla dopo tanti anni, no, per sapere adesso se è ancora non monaca. Non so se è passibile di quasi di denuncia. Ma denuncia di che? Marisa Marraffino, avvocato, eccoci qua. Buongiorno, grazie a tutti. Buon anno, come va? Tutto bene? Grazie anche a voi, grazie. Allora, Marisa Marraffino ha scritto, sì, tra l'altro ha portato alla luce questa novità per quel che riguarda le chat di WhatsApp, mamma mia, vabbè, Questo è un altro argomento personale. Le chat di WhatsApp. Allora, a Ferrara il tribunale ha giudicato su una vicenda di una chat evidentemente degenerata. Si trattava di una scuola materna, se non sbaglio, una chat. Quindi un asilo nido privato. Sì. Un asilo nido privato. Che è successo in questa chat? Sarà volata qualche accusa di troppo? È successo quello che capita purtroppo spesso, che lo riscontriamo anche noi. A volte non finiscono in tribunale, questa volta invece sì, e ce lo aspettavamo, che le chat dei genitori finissero prima o poi nelle aule di giustizia. È successo a Ferrara, in cui questa chat i genitori hanno un po' esagerato la realtà dei fatti, cioè hanno cominciato a lanciare delle accuse un po' pesanti nei confronti di una maestra di questo asilo privato, che alla fine è stata addirittura licenziata e denunciata in sede penale per maltrattamenti. Ricordiamo che il tema del maltrattamento però è un tema delicato, molto sensibile, molto. Ci sono state anche purtroppo tante vicende vere, reali di maltrattamenti. Sì, diciamo intanto diciamo che questa è stata appunto la verità processuale, sia penale sia in sede penale che davanti al giudice del lavoro, che però è un precedente, no? E ci dice che spesso nel chat dei genitori si creano dei fenomeni suggestivi, quindi delle esagerazioni della realtà. Perché qui questo è il senso della sentenza, cioè il tribunale ha detto attenzione, nelle chat la realtà a volte viene distorta. Esatto, può essere proprio deformata. Che era successo? Che i bambini, ricordiamolo, erano molto piccoli, quindi con tutte le difficoltà del caso, avevano però riferito di aver subito diciamo dei maltrattamenti, cioè dicevano che la maestra era cattiva, che li picchiava, che manifestavano un'antipatia nei confronti di questa maestra. Ora, ripeto, il caso è molto delicato, credo che sia stato gestito anche un po' male dai genitori, al di là della chat di gruppo, no, che avevano creato, perché la prima cosa che fanno i genitori, invece di denunciare alla polizia, creano questa chat di gruppo. La denuncia alla polizia arriva dopo, quindi la maestra è stata anche informata dei fatti, quindi mettiamo anche fosse stato vero che purtroppo ci fossero stati insomma dei metodi correttivi un po' violenti, sono mossi male. Sì, però io voglio capire, avvocato, la denuncia poi dei genitori. Sì, ma avvocato, mi scusi, però io vorrei capire questa cosa, in un tribunale si accertano i fatti o si accertano i fatti attraverso una chat? Dovrebbe esserci la prima di... Si accertano i fatti, però le chat a volte servono anche a dimostrare i fatti, no? Perché sono delle prove documentali, quindi le chat possono entrare in giudizio, entrano sempre in giudizio ultimamente, quindi vengono prodotti messaggi, vocali, di tutto, e alle volte quando sono pertinenti al giudizio possono essere anche dirimenti, cioè possono avere un ruolo fondamentale. In questo caso però devo dire una cosa, intanto che i giudici appunto hanno contestualizzato, no, queste chat dicendo che i genitori, diciamo le denunce sono nate proprio dopo che i genitori riconducevano qualsiasi episodio di sfogo anche dei bambini, no? Per esempio il bambino fa gli incubi, il bambino butta in terra i giocattoli in maniera particolarmente violenta, ecco, tutto veniva poi ricondotto alla maestra. Quindi si ha anche un fenomeno autosuggestivo, dice il giudice, no? Quindi confrontarsi con gli altri genitori a volte rende i fatti, che di per sé potrebbero essere innocui, invece vengono connotati di una pericolosità che poi si sgonfia nelle aule dei tribunali. Quindi capisco anche la delicatezza della questione, quindi la voglia dei genitori di condividere, no? Il bisogno di condividere qualcosa che può essere anche molto pericoloso, però ecco, ricordiamoci che questi fatti poi devono essere accertati, confermati, come giustamente dicevi te. Quindi per accertarli bisogna che gli inquirenti facciano le indagini, no? Per cui se io avverto la maestra o avverto prima i genitori degli investigatori, è logico che poi non sono state messe le telecamere, quindi non sono state fatte indagini che avrebbero per esempio condotto all'accertamento dei fatti, come giustamente dicevi te. Quindi sfogarsi in chat poi rischia di vanificare anche l'esito di un'indagine. Quindi di fatto la maestra è rimasta al suo posto adesso, perché non è stato accertato nulla. No, in realtà la maestra aveva un contratto a tempo determinato, quindi è stata licenziata e gli è stato riconosciuto un risarcimento del danno, semplicemente, quindi non è stata ovviamente reintegrata. In sede penale è stata assolta con formula piena. Poi diciamo, questa è la verità processuale, è come sempre accade, no, nel processo. Quindi Ripeto, quando ci sono di mezzo minori, noi lo diciamo sempre, quando sono coinvolti i minorenni bisogna ragionare, anche se è difficile a volte da genitori, no? Però a mente fredda, e quindi capire che se davvero ci fosse un'ipotesi di maltrattamento e di violenza, la strada giusta non è quella di avvisare la diretta interessata, no? Immediatamente, e nemmeno quella soltanto di creare delle chat di gruppo. Ecco, la chat di gruppo doveva essere magari uno sfogo dei genitori, ma sì, doveva essere magari usata meglio. Ha rischiato quasi di portare, se non altro, il giudice a pensare, a dubitare della vicenda. Insomma, è stata un'arma a doppio taglio in questo giusto, caso. È stata un'arma a doppio taglio, serve un pochino da monito, ecco, credo anche per il futuro non servirà a nulla questo monito, non servirà a nulla, si moltiplicheranno. Hai sentito, Leonardo, che la nostra avvocata è passata al tu. Siamo emozionati. Mi chiamate sempre. No, ma lei non so se contenti, la vive come un bene o un male. No, io sono anche personalmente un po' emozionato, sono felice. Ormai vi considero amici, ecco, vi do del tu, non perché ci siamo visti in tribunale. No, io non vorrei mai, come controparte l'avvocato Marrafino. ottimo, va bene. Allora, noi ti ringraziamo, ti saluta anche uno strano soggetto che è dall'altra parte del vetro, risponde al nome di Peter. Mauro Meazza. Peter l'Alpino, l'avvocato Marrafino. Volevo informare tutti gli uomini di Radio 24. È stupenda. Tutti. Questa cosa è meravigliosa. Volevo informare l'avvocato che è stata creata una chat che si intitola Vittime di Mauro Meazza. Sono quelli che hanno avuto dei danni economici da Mauro Meazza. Non so se è bene. Ma io in questo caso difendo Mauro Meazza. Ecco, sempre, vabbè, certo. Di fronte alle solite parcelle. Si spartiranno, caro Leonardo, i proventi delle attività illecite del dottor Meazza. Così, va bene. Ringraziamo Marisa Marrafino, grazie avvocato. Grazie a voi. Ci sentiamo presto. Manera, sei un neronello vivente. Inutile scrivere i testi, racconti. Io questa è una cosa che ho sempre detto anch'io. Inutile scrivere dei testi, racconta semplicemente la tua vita, così com'è. E va benissimo così. Va bene, se lo dice lei, grazie. Chi è? Un ascoltatore. Manera, tranquillo. A me è capitato uno che dopo di me è passato agli uomini. Questo è quello, può capitare, sì. Può capitare. Allora, dai, Manera, l'avvocato. Vabbè, siamo Manera, l'avvocato ha una bella voce, provaci. Adesso calmi, cari ascoltatori. È vero, l'avvocato Marrafino ha una voce sorridente, se si può usare questo termine. Dovevamo farle dire ciao. Va bene, sapete la teoria di Manera, che in base a già come dal una donna, ciao si capisce se una donna è libera o è fidanzata. Dal modo in cui dice ciao. Vale solo per le donne, Meazza, è inutile che ci guardi così. Allora, se anche voi siete stati vittime di Mauro Meazza, mandate qui le vostre lamentele e verrete anche voi associati alla chat. Vittime di Mauro Meazza. Qui dove? Cioè, qui a uno nessuno 100.000, scrivete. Sì, ma come scrivono? Anch'io ho avuto danni economici da Mauro Meazza. Ma dove scrivono? È Radio 24, 1 100.000, eccetera. Ma un numero di telefono? Attento, ripetilo bene, che sennò l'ex direttore di Rai 2 ti fa brillare. 349-238-6666. Ecco. Bravo. Fineco, la banca che semplifica la banca, vi presenta Ultima Ora, il gatto tigro al Giro d'Italia. Ma no, basta fake news! Monge non racconta storie. Le nostre crocchette sono 100% made in Italy, con carne fresca per un'appetibilità straordinaria. Monge, il pet food che parla chiaro. Cerco donna sexy, tenera e divertente e avventurosa e amante del calcio, ma che mi faccia anche un po' da mamma. Se vuoi sempre di più, scegli Fiat. Solo a gennaio tutta la gamma è a piccole rate con anticipo zero. Ad esempio Panda da 99 euro al mese per i primi 2 anni e poi da 134 euro al mese. E con l'assicurazione Make Up i piccoli danni non sono più un problema. Ci pensa Fiat. TAN 645, TAG 939, offerta FCA Bank soggetta ad approvazione. Fino al 31 gennaio, info su fiat.it. Entrino le grandi marche alla Coop. Dalla nobile casata Findus ecco il minestrone tradizione, con verdure 100% italiane e ingredienti IGP e DOP. Convenienza grandiosa Coop. Fino al 22 gennaio minestrone tradizione Findus, un chilo a solo 1,49 euro. La Coop sei tu. Gli abbiamo dato tanto. Troppo. Reform. Tutto. Tutto sì, ma non Credit Reform. Il gruppo Credit Reform, con un fatturato di 550 milioni di euro, è la prima società di informazioni d'Europa ed evade ogni anno più di 16 milioni di informazioni commerciali e 500.000 aggiornamenti gratuiti a 170.000 clienti. Un servizio unico, completo, sicuro. CREFOCERT, il certificato rilasciato da Credit Reform, rafforza la tua posizione con clienti e fornitori. 800-425-325 o creditreform.it. Promo Miao! Questo mese sconti fino al 50% sul Grass porcellanato. Promo Miao! Prima non c'era, ora c'è. Negozi Iperceramica. Prezzi super, qualità iper. Iperceramica.it. Miao! Uno, nessuno, 100 Milan. È da capire la ex di Manera che si è fatta suora, ha preferito una vita di clausura che una vita di amarezza. Occhio Milan, non sottovalutiamolo, se questo è riuscito a far andare la suora anche la ragazza, figuriamoci a te che sei già un po' che lo frequenti, mi raccomando, occhio. Devo dire che questa storia della suora di clausura ha colpito, Ma guarda, mi è rimasta impressa questa ragazza, risale questa mia conoscenza forse al 2005-2004. Sara, ma sai di che ordine è? Perché magari riusciamo a... Sara, suor Sara. No, basta, Terlizzi. Abbiamo già detto fin troppo. No, lascia stare, non voglio essere invadente nei confronti di questa... Fai una sfida, Luchetti, scusa, guarda se c'è un convento di clausura a Terlizzi. Chiamiamo Vendola, glielo chiediamo a lui, non so, per le parti. Era una bravissima e simpatica Sara, ragazza. Sì, suor Sara. Basta, basta. Mamma mia, che macigno. Va bene, va bene. Sono le 10:39 minuti. Siamo qui. L'ordine delle grappine. No, no, no. Fai il bravo, caro ascoltatore Davide. Sentirei Patrizia da Milano. Eccoci, Patrizia. Pronto? Sì. Pronto, sì. Buongiorno, io sono una vostra assidua ascoltatrice. Ottimo, ottimo. Come mai? Perché ancora? Come mai? Perché è molto divertente, sia uno bravo, l'altro bravissimo, insomma, siete bravi, molto bravi. Tu sei quello bravo, bravo. Sì. Leonardo Manera poi la pensa come me, ci sono delle cose su che cosa, Patrizia? Che le abbia suggerite io. Su che cosa, Patrizia, la pensa come, ma come per te? Per esempio sui medici, su sì, questi medici del pronto soccorso, quando fa i suoi interventi, insomma... Il dottor Mazza. Sono tutte cose vissute poi personalmente sulla mia pelle, quindi... Esatto, anche per me è un discorso lungo, quindi sarebbe da approfondire. Io adesso invece, per non farvi perdere tempo, telefonavo perché Manera e Milan avevano fatto una trasmissione il 24, la vigilia di Natale, sì, la sera però, stupenda. Non la mattina, la stupenda, sera, sì. Che mi sono persa, che ci siamo persi, certo. E ha detto, non so se Leonardo o Alessandro, hanno detto che l'avrebbero messa in podcast. Ma guardi, ha ragione Patrizia, e invece non l'avete allora fatto. Me ne occupo guardo subito incenerendo con lo sguardo Lorenzo Nespoli. Allora, era la trasmissione straordinaria del 24 dicembre, esatto, della vigilia di Natale, non in cui alle 20 o alle 21. Sì, alle 20. Sì, una cosa del genere. In cui Leonardo Manera, non io ero lì solo ad ascoltare, come tutti, estasiato. Leonardo Manera ha raccontato la sua carriera professionale. Ecco, infatti, mi hanno detto, ma stupendo, non me la siamo stupendo, persa. Stupendo. Allora, oggi è l'obiettivo di Lorenzo Nespoli, non esce di qui. Lo tengo sequestrato. Come fare a mettere, insomma, sul sito questa puntata straordinaria? Ce l'hanno chieste varie persone. È piaciuta Giampiero Mughini, che ha scritto il pezzo su Dagospia. Quindi, Patrizia, è un impegno personale di Lorenzo Nespoli, ovviamente. Se no, poi ti do l'indirizzo di Lorenzo Nespoli e lo vai a picchiare. No, per carità. Intanto prendiamo la tua mail, Patrizia, così ti facciamo sapere anche quando è su online e come fai a riascoltarla. Oh, grazie. Ti ringraziamo, Patrizia, per l'ascolto che ci dai quotidianamente. Ma no, ma soprattutto, vedi, ma quella puntata, quella alla quale, ricordiamo, tu non volevi presentarti. Sì, esatto. Ti sei presentato all'ultimo momento perché... Alla fine ho trovato un accordo contrattuale che mi ha convinto. Sì, sì, sì. Costato 5.000 euro solo sull'unghia, tin, tin, tin, tin, col direttore personale. Diamogli sti 5.000 euro alle 20 meno 15 minuti. C'è la signora Sonia Cassaghi che può smentire queste illazioni. Va bene. c'è Roberto dalla provincia di Bologna. Sì, buongiorno a tutti. Eccoci, Roberto, buongiorno. Ciao, volevo fare un piccolo appunto in merito alle, agli asili nido e alle telecamere. Sì. L'aspetto relativo alle telecamere è una richiesta fatta dalla società civile. Questo perché avvengono fenomeni frequenti di maltrattamento sia dei bambini nella loro prima fascia di età, e quindi persone inermi, sia degli anziani nelle, negli ospizi, ad esempio, no? Quindi la cronaca è ricca di fatti di cronaca che recitano che la violenza presso questi, su questi inermi è abbastanza frequente, quindi per metterci dalla parte dei bottoni, diciamo che una telecamera in questi ambienti probabilmente potrebbe essere un elemento dissuasivo da una parte. Anche, c'è anche una proposta di legge in sì, Parlamento. Assolutamente, però diciamo che la massima resistenza da questo punto di vista, almeno nella regione in cui sono io, è rappresentata proprio dalla sinistra, che non ne vuol sapere. Ora io mi chiedo, adesso, al di là di sinistra, io credo che sia una questione di privacy, no? Cioè è il tema della privacy quello. È anche vero, però chi ha figli piccoli e dà la, la liberatoria su questo aspetto ha già risolto il problema, perché poi sono ambienti circoscritti e quindi non è che siano a disposizione di tutti. Certo. Io mi metto dalla parte di un genitore ansioso, mettiamola così, no? Che vuol vedere il proprio bambino, si collega wifi a questa telecamera, vede il proprio bambino e sereno e tranquillo può continuare a fare altre cose. Contemporaneamente è un elemento dissuasivo, perché chi volesse mai maltrattare i bambini sa che potenzialmente può essere osservato. Ora, questo metterebbe in pace tutti e eviterete probabilmente questo fenomeno di violenza sugli inermi, perché non dobbiamo dimenticare che i bambini anziani sono la parte più debole della società. È il tema più infame che ci sia. Allora, il tema delle telecamere è un tema sentito da molti, dibattuto. Da una parte c'è la privacy, dall'altra la sicurezza. Attenzione però, perché io è inutile che vuoi bloccarci in questo tipo di inchiesta. Ormai siamo partiti. Ci chiedono di cercarla, non come Suor Sara, perché in genere le suore usano uno pseudonimo, cioè un altro nome, cambiano nome e non il nome di battesimo. Mentre la nostra Miriam Lucchetti ci fa sapere che c'è a Bisceglie, però, sei sicuro che non è a Bisceglie? Ma a Bisceglie ci sono le Clarisse, monache di clausura. E può essere, vedi che è lì, io non racconto bugie. Ma no, adesso non è che questa è una conferma che sia lì e che esista questa povera donna. Vediamo, se è un punto di partenza. È un primo punto. Sì, ma non di è che bisogna adesso cercarle. Ma lì nel si suo, in lì nel suo convento che sta dicendo le preghiere, lasciamola così concentrata sul suo lavoro. Allora, non vogliamo è che... vincere, ci siamo messi in mente di vincere il premio Pulitzer riuscendo a recuperare Sara, forse non più Suor Sara, ma Suor. Vai a sapere come si fa a chiamare, se esiste, monaca di clausura, forse a Terlizzi, ma magari a Bisceglie. Vabbè, io direi che è la sua vita che andrebbe lasciata confusi, stare. Ci sono elementi confusi nella sua vita. Pensa se ci viene a dire sì, la verità è che mi sono fatta suor di clausura pur di non continuare una storia con Manera. O magari ti ha detto è andata a fare la sua di clausura, poi è sposata, ha quattro figli. Questo può essere. Magari mi ha dato una grande bugia. Come uscire da questa vicenda e ha trovato quella più originale. Come. No? Chi lo sa? Chi lo sa? Beh, perché se fosse così ed è all'ascolto Sara, che vive a Torino, è sposata, ha tre figli ed è lei quella Sara che, non avendo una scusa migliore per troncare con Manera, si è inventata di aver visto la Madonna. Questa è l'opinione che c'è su di me. Questo mi amareggia molto, veramente, perché l'idea, la sola idea che una donna, pur di non stare con me, vada in convento, guarda, questa è una cosa veramente mortificante. Ecco. Sarebbe da andare perché via. E non... Cos'hai contro le donne che vanno a fare le monache di clausura? Non è quello, però è una scelta forte. Quindi, se uno fa una scelta di questo tipo, pur di non vedermi più, già solo pensare così, dovresti alzarti e andartene, o almeno chiamare il direttore personale e dire altri 3.000 euro, non concludo la trasmissione. Esatto. Traffico. Libera le emozioni e accende l'inesplorato. Scopri nuove strade, crea legami e connessioni. Immagina l'innovazione e vivi il futuro, cominciando dagli affettati. Con il salamino Calloni soddisfi ogni palato. Sempre buono anche con le fette di pane duro. Salamino Calloni, vivi il futuro. Uno, nessuno, 100 Milan. Yeah. Milan, dopo che ho visto lo spettacolo di Manera, tristemente sono andato a vivere in un rifugio su Asiago. Una mia ex fidanzata si è fatta monaca buddista, va bene lo stesso? Va bene. Che bello, potremmo lanciare questo contest. Cosa hanno fatto di bizzarro o di strano? Io non credo a quello che è andato in rifugio ad Asiago, questo se l'ha inventato. Oppure era lì da quelle parti. Spettacoli di Manera sono sempre spettacolari, per l'appunto. Allora signori, però è venuto a ritrovarci con grande piacere il nostro ex imprenditore Carlo Nero, in arte Neronello. Il clown Neronello, l'amico dei bambini. Yup! Buongiorno, come buongiorno. Lei ha detto, prima di diventare clown avevo un altro lavoro, un'impresa di pompe funebri. Ma purtroppo tutte queste app hanno rovinato anche il mercato funerario. Le persone non vogliono perdere tempo a salutare i parenti defunti, scelgono un emoticon con due cuoricini, in un click sistemano il morto. E la coscienza, peccato, perché noi avevamo anche delle bare personalizzate. Ah, ecco, le famose. Vabbè. Sì, facevamo un servizio completo di bare personalizzate. Per esempio sulla bara di un elettricista abbiamo scritto «si è spento». Vabbè. Sulla barra di un illusionista abbiamo messo un lucchetto chiuso e abbiamo scritto il numero stavolta non è riuscito, numero di escapologia. Sì, certo, va bene. Non tutti i parenti la prendevano bene e alla fine ci siamo dovuti arrendere. Mi sono reinventato, ho trovato un nuovo lavoro, sono diventato clown per bambini, clown Neronello, yup! Esco da casa già truccato da clown e appena arrivo nella casa dove ho la festa faccio subito un indovinello. Ah, i famosi indovinelli. Per far divertire i bimbi. Sì. Per esempio, bimbi, cosa fa la ranocchia strafatta? Fa crack. Appena ho detto questa bella battuta, un bambino. Bellissima! Adatta ai bambini. Adatta soprattutto, bellissima e adatta ai bambini. Ce la può ripetere per chi magari... Bimbi, sapete cosa fa una ranocchia strafatta? Fa crack! Bene, come hanno reagito questi mocciosi? Un bimbo ha preso una rotella per la pizza e mi ha inseguito per tutta la cucina, voleva tagliarmi la gamba con la rotella della pizza. Allora ho detto, bambini, se volete divertirvi veramente, mettete i vostri ditini nelle prese di corrente e guardate che sorpresa c'è in fondo. Ma no, ma come? Ma lei è un matto scatenato. Era una bella casa con delle prese di corrente ancora belle larghe, come si usava una volta, l'ideale per far inserire i ditini dei bambini. Sì. Stava per succedere l'irreparabile quando è giunta la madre del festeggiato e mi ha detto, Neronello, lascia stare i bimbi, prendi me. Allora ci siamo appartati nella sua camera da letto dove finalmente ho potuto testare i miei nuovi profilattici a forma di marionetta. Che stare di marionetta? Sì, stare in piedi per un po' e subito dopo fanno l'inchino. Bene. A volte fanno l'inchino troppo presto, devo dire. Ecco, chissà perché. Vabbè, ma ormai sta maschera. Niente, adesso con questa immagine dei manichini, delle marionette che... Ma ormai stava scadendo il mio tempo, i bimbi stavano rientrando in soggiorno, calmi, dopo questa scossa di energia, così sono sceso e ho raccontato ai bimbi una delle mie favole, le favole del clown Neronello, l'amico dei bambini. C'era una volta un piccolo villaggio ai piedi dei monti dove vivevano due giovani uomini che si conoscevano fin da bimbi. Entrambi erano molto poveri. Il primo si chiamava Badrusillo e il secondo Ortodonzio, per via della sua dentatura complessa. Badrusillo, no? Badrusillo, no? Bella sta musica, Badrusillo non pensava mai al futuro, tirava a campare chiedendo l'elemosina e continuava a lamentarsi di quanto era sfortunato. Ortodonzio invece era molto previdente. Ma c'è... Ortodonzio, facevo il taglialegna e ogni giorno... Forse è meglio rimandare un'altra volta. Ci vuol, la fama. Ci vuol dire anche la morale che c'era allora. Dietro. Almeno la morale, la morale. Bimbi, qual è la morale? Ma non si capisce senza il resto della favola. Chissà perché, chissà perché. Ortodonzio faceva il taglialegna. A che ora chiudiamo, signor Tra mio? Un minuto. Rimandiamo la favola a, una, a un'altra occasione. In questo caso viene pagato lei alla festa per bambini? E nelle feste sì, naturalmente, ho adempiuto il mio compito nel migliore dei modi. Chiedono se sia Neronello la rana strafatta. Evidentemente potrebbe essere la favola della rana strafatta, cioè. Questo non è dato saperlo. Va bene. Caro Neronello, ci racconteremo, narreremo la favola in un'altra occasione. Ci vuol ricordare i personaggi? Ortodonzio. Allora, Badrusillo e Ortodonzio, per via di questa dentatura complessa. Complessa, va bene. Allora, dai, la ringraziamo per essere venuta a trovarci con questo buon umore, travestito da rana strafatta. Ci ritroviamo domani alla solita ora. Domani alle 9, domani mattina alle 9, no, alle 10 a me! Uno, nessuno,